Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. È a San Pietro che abita, e non può abitare che a San Pietro, la dinastia dei Corrales. Nelle loro case saranno 4 o 5 i rami che discendono dal capostipite Bainzu, che chiamavano Deus, Dio, per la sua maestà nel cavalcare. Si entrava a cavallo, proprio come negli ovili. Ma le case sono alte, 3-4 piani, anche se la vita, rimasta nomade, si svolgeva tutta al piano terreno, come nella casa di Don Sebastiano, ma con altre presenze. I Corrales, come gli altri pastori, avevano camminato e camminavano ancora dietro le pecore, e come gli altri, avevano guardato quella sterminata campagna con l'occhio del pirata che guarda il mare. E lo sguardo loro si era tradotto in azione, la misteriosa azione del ladro che è all'origine della proprietà. Rubare, quel che noi chiamiamo rubare nell'artificioso presupposto che esista una cosa mia e tua, e comunque nell'angusta visione di un portafoglio o di un gioiello, significa in Sardegna, o meglio a Nuoro, o meglio a San Pietro, prendere un gregge di 1000 pecore e dissolverlo nel nulla. Il padrone immiserito gira a piedi tutta l'isola, manda a destra e a sinistra i suoi servi, segue per le terre e per i guadi tutte le orme. Nulla, nulla, assolutamente nulla. Quel gregge non esiste, ma soprattutto non è mai esistito. Si capisce che i Corrales non hanno la bacchetta magica e 1000 pecore, che poi nel bilancio finale diventano 100, 200.000, senza contare i buoi e le vacche, non si possono rubare se non le ruba tutta la Sardegna. Ma questa è la magia dei Corrales, di aver fatto ladri tutti i sardi, o almeno tutti i barbaricini. Gli altri sardi del resto non contano. I giornali di Sassari, di Cagliari, anche quelli del continente, avevano gridato allo scandalo, alla rovina dell'isola, anzi dell'economia isolana che era fondata sulla pastorizia, e l'autorità era intervenuta con leggi feroci contro l'abigeato, catalogando il bestiame, descrivendolo in un bollettino di cui il pastore doveva andare munito. Ma che cosa avevano ottenuto? Che un miserabile che aveva rubato il giogo di un contadino veniva gettato in galera per 5 anni. Miserabile perché il giogo del contadino non si ruba. Non c'era bisogno di leggi per questo. Una volta avevano rubato il giogo a zio Cancarru, che aveva 5 figli. Subito Bainzu Corrales aveva aperto una colletta e tutto San Pietro aveva comprato un altro giogo al povero contadino di Seuna, anche più bello dell'altro. Col passare del tempo, intanto le case dei Corrales crescevano di piano in piano e con esse crescevano tante case minori, cresceva San Pietro, le pecore cominciarono a lasciare le orme. I disgraziati proprietari di Ozieri, di Pattada, perfino di Campidano, seguivano 1000 meandri da un capo all'altro dell'isola, sostando presso i loro amicos de posada. Poiché non c'erano alberghi, si aveva in ogni paese una casa ospitale, con diritto di reciprocità, e gira e gira e rigira le orme portavano alle case dei Corrales. Entravano quei pacifici proprietari del Logo d'Oro con il loro costume nero mortuario, la berretta ripiegata sulla testa, i pantaloni stretti come bende e il lungo baculo lucidato dal tempo stretto nella mano come un inutile scettro. «Buonas dies, zio Bainzu». «Buongiorno, zio Bainzu». «Bene Benniu, benvenuto. E che novità a Ozieri, o a Patada, o Budusò, o Bonorva?» rispondeva zio Bainzu. «Così siamo», replicava quello. «Come così? I pascoli di Ozieri sono tra i più floridi della Sardegna. Non è come qui, tutto pietre, e sete, sete tutto l'anno. Da 8 mesi non è caduta una goccia d'acqua, e d'inverno neve e gelo. Si gelano anche i campani delle pecore. Quando ero giovane, mi avevano richiamato ad Ozieri. Mi sarei gettato a brucare l'erba. Del resto, avete il bestiame lucido come uno specchio. Le vostre terre valgono 3 volte le nostre. Poi, abbassando la voce, come parlando a se stesso, ma con un masticato rimprovero, io avrei anche comprato qualcosa da voi, ma voi non volete vendere ai nuoresi, perché dite che vi portiamo il furto e la rapina. Peccato. E Don Bustiano, come sta? Deve avere i suoi anni ormai. È morto quest'anno, non sapevate? Peccato, peccato. Era un brav'uomo. Che sia nel cielo. E Zaime, il figlio di Gianuario? È lui che mi ha detto di venire da voi, zio Bainzu. Zio Bainzu naturalmente lo sapeva benissimo. Ah, ma allora, Mariangela, porta il caffè e gli amaretti. È un amico e gli ho battezzato il figliolo che deve essere già grande ora. E Mariangela, la moglie di zio Bainzu, la madre di tutti quei figli, entrava col vassoio e la caffettiera, che era sempre pronta vicino al fuoco, senza guardare l'ospite, testimone muta e sorda, perché sapeva attenersi al principio fondamentale di vita, per sé e per gli altri. Quel che fa il padrone è ben fatto. Giusto, Zaime, col quale sono amico di posata, mi ha detto fidati di lui, se non ti sbriga lui, non ti sbriga nessuno. Zio Bainzu aggrottava la fronte. Ah, ti sei messo negli impicci allora? No, no, mi è capitato un guaio. Il gregge mi hanno rubato. Era tutto quello che avevo. Beh, non sarà proprio tutto. E cosa vuoi che io faccia? Zaime mi ha detto di chiedere a voi, che voi siete potente. Insomma, non era una cosa facile, con tutta quella marmaglia che c'era in giro. E bisognava spendere purtroppo perché c'era da mandare gente intorno e per nulla non si fa nulla. Gli aveva detto un mercante di bestiame che nelle campagne di Mamoiada aveva visto un gregge senza pastore. Quanti potevano essere? 100, 200, molte di più. Il sacrificio doveva essere grosso, ma per Zaime avrebbe fatto questo ed altro. Vedremo. Intanto lasciasse 1.000, 2.000 lire. Avrebbe cercato di tirare col prezzo. Dopo 2 giorni il gregge risorgeva dal nulla, come se una nuvola si fosse aperta e l'avesse depositato dolcemente nella grassa tanca ozierese. E la fama di zio Bainzu si spandeva per tutta la Sardegna. C'è il rovescio della medaglia, e le cose sono più facili da raccontare che farle, perché né zio Bainzu Corrales, né i suoi figli, né i suoi servi potevano essere dimenticati dai carabinieri. E 100 volte il portone della rotonda, la prigione circolare che ti veniva incontro appena scendevi dalla stazione, si era chiusa alle sue, alle loro spalle. Ma era come se si chiudesse il portale della sua casa, e mai era sicuro della sua innocenza come quando lo mettevano dentro. Tant'è vero che dopo 3, 4 mesi dovevano buttarlo fuori per forza, perché la voce del suo arresto correva per le campagne al suono di un tam-tam, e dopo 2 giorni disponeva di tanti alibi che pareva avesse il dono dell'ubiquità. E poi... Quando il pastore considera la terra, le greggi, la roba degli altri come sue, anche la vita degli altri diventa sua. L'uccidere e il rubare non sono cose molto diverse, al di là del codice. Certo, nessuno uccide senza una ragione, ma se c'è la ragione, non sarà la fragile esistenza di un uomo che fermerà la mano. Perché hanno messo fuori dal mondo Banneddu Zucca? Nessuno lo saprà mai. Era un giovane tranquillo, senza nemici, un poco anche inurbato, sebbene tutti i giorni andasse a cavallo a Lardine per aiutare suo padre nella mungitura. Qualche ragione ci sarà stata, così di tanti altri. Del resto, nessuno avrebbe osato guardare le mani di zio Bainzu, e neppure quelle dei figli. Nelle grandi sere d'estate, egli, dopo aver mangiato un po' di pane e formaggio, poiché era parco, si sedeva ai piedi di un olmo che era cresciuto in fondo alla corte e leggeva, poiché aveva imparato non si sa dove a leggere e a scrivere. La dinastia dei Corrales non era un fatto isolato, come poteva essere quella di un signore feudale chiuso nel suo castello. Zio Bainzu esprimeva nient'altro che la volontà di vivere di San Pietro, quella che mancava agli abitanti opposti di Seuna. In rustico poteva rassomigliare a quegli avvocati dei paesi che avevano conquistato o credevano di aver conquistato Nuoro, ma c'era la solita incolmabile differenza che zio Bainzu erano rese e quelli non lo erano. I confini di San Pietro erano incerti, non come quelli di Seuna, che erano segnati dal ponte di ferro. Io li metterei lungo quella linea spezzata che parte dalla caserma vecchia dei carabinieri, piega verso la piazza di San Giovanni, che ne resta fuori, giunge all'imbocco del vicolo strettissimo dove abita Maria Pisu, sempre seduta in mezzo al patio, dentro la ruota delle sue sottane orlate di rosso, e si disperde infine a Monte Longo, che è già campagna in vista del monte. Per farla breve, e questo è quello che importa, San Pietro finisce dove comincia il lungo corso appena lastricato di Nuoro, simbolo della terza Nuoro, la Nuoro del tribunale, del municipio, delle scuole, dell'episcopio, di Don Sebastiano, di Don Gabriele, di Don Pasqualino, dei signori, ricchi o poveri che fossero. Se i confini di San Pietro non erano materialmente certi, la gente di San Pietro li conosceva benissimo, e mai uno di lassù avrebbe osato di varcare la soglia del corso, l'antica via Maiore. Ci poteva capitare qualche Corrales se aveva da fare con l'avvocato, per sé o per i servi o i compari, ma nessuno di quei pastori che puzzavano di formaggio, nessuno di quei giovinastri che schiamazzavano avvinazzati durante la notte, che attendevano di maturare per diventare ladri e intanto non vedevano due soldi insieme, nessuno si sarebbe mescolato con quei signori del corso o sarebbe entrato in uno di quei negozi dove il cagliaritano, chissà come si chiamava, misurava col palmo la stoffa che vendeva, o Marianna Zedda pesava con la stadera la pasta e il riso, o nell'istanco tabacchino di Don Gaetano che vendeva sigari e carta bollata, ma era nobile, come si vedeva anche dalla lunga barba, o si sarebbe seduto al caffè dove i signori esercitavano il diritto di non far niente, o si sarebbe affacciato alla barandilla, verandina, dove i più anziani e morigerati signori se ne stavano appoggiati a ricevere il fresco che veniva niente di meno che dal giardino pubblico, che i più chiamavano ancora satanca, e in tanca, infatti, finiva dove cessavano le acace che un sindaco continentale aveva fatto piantare in file ordinate. La distanza fra le tre Nuoro era molto più grande che fra la prima, la seconda e la terza classe del trenino che univa Nuoro a Macomer e al mondo, che già era molto più grande di quella di adesso. Perché ad esempio Don Sebastiano, che pure era nobile e ormai quasi ricco, mai avrebbe viaggiato in prima, e neppure in terza, essendo la seconda il suo posto naturale. Era il frutto di uno spirito tribale, di una scelta, libera, come il battesimo. Il corso si stendeva con una lieve pendenza dalla piazza di San Giovanni, dove era il mercato, al ponte di ferro. A metà, prima di una grande curva e dopo la piazzetta della Barandilla, c'era un tratto pianeggiante sul quale si affacciavano le case di Pretesa. quella del registro che Don Sebastiano aveva comprato per affittarla, quella di Bertini, uno dei continentali che trasformavano le pietre in oro e finivano col sardizzarsi, ma conservavano l'alta taglia settentrionale che trasmettevano ai loro bastardi, quella di Tettamanzi, altro continentale, ma di cui non si serbava ricordo che nel nome del caffè al piano terreno. Era un caffè grazioso, con piccole salette orlate di divani rossi, come, salvando il rispetto, i caffè di Venezia. Proprietario del caffè e della casa era adesso Giovanni Maria Musiu, forse per via di madre, ma che del continentale non aveva nulla. Piccolo, grasso, con gli occhi neri, la barbetta a punta, aveva solo una maledetta volontà di vivere, cioè di giocare alle carte nelle sue salette. In questo tratto pianeggiante si raccoglieva naturalmente tutto a Nuoro. Gli avvocati incontravano i clienti, i proprietariotti dei paesi dal costume brillante spiavano i mercanti per barattare astutamente i loro prodotti, l'olio e le mandorle della baronia, il vino di Oliena, il formaggio di Mamoiada e di Fonni. E di qui dovevano passare al mattino tutti quelli che andavano dal dio Terragnolo, che era il tribunale, o dal dio Anfibio, che era la chiesa enorme, sproporzionata, fatta costruire da un vescovo ricco, il quale vi aveva fatto scolpire nel lungo cornicione frontale dei Ipare Virgini Anive Sacrum, che neppure i preti riuscivano a tradurre. Santa Maria della Neve e il tribunale stavano l'una davanti all'altro e per arrivare si doveva salire una strada ampia, selciata a dovere, passare l'arco del seminario oltre il quale si ergeva l'immensa rupe di una delle cime dell'Ortobene come un gigante pietrificato. Nei giorni di corte d'assise e nelle grandi feste religiose era una variopinta processione e ciascuno andava lassù col suo segreto fardello. Santa Maria era forse all'origine del centro storico, come oggi si usa dire, cioè del borgo abitato dai signori. Signori non vuol dire ricchi, è solo il contrario di rustico, e la differenza, ma grande, è data dall'abito civile che ha vinto il costume. Quanti saranno stati i cittadini del borgo tra il corso lastricato, la via della stazione con una doppia carreggiata di granito sul selciato, le piccole sconnesse vie adiacenti, non troppo diverse da quelle di San Pietro, ma diversamente abitate. Io credo che non si andrebbe se ci contassimo oltre le 1500-2000 persone. Sono poche nell'astratto mare della vita, sono molte nel concreto spazio in cui le persone acquistano un volto e un nome. Non sono mille, ma uno più uno più uno e così via. E ciascuna deve vivere, vivere per conto suo e nello stesso tempo vivere con l'altro. Questo, in fondo, era il grande problema di Nuoro. C'erano preti, c'erano avvocati, medici, professionisti, mercanti. C'erano poveri manuali, il ciabattino, il muratore, il maestro delle scarpe e il maestro del muro. C'erano gli oziosi, i miseri e i ricchi, i savi e i matti, chi si sentiva l'impegno della vita e chi non lo sentiva. Ma il problema di tutti era quello di vivere, di comporre col suo essere lo straordinario e lugubre affresco di un paese che non ha motivo di esistere, di un paese come del mondo, forse. Perciò non vi era odio, non vi era amore. C'era la contestazione dell'altro che diventava la contestazione di se stessi. L'odio e l'amore si compensavano e si componevano nella necessità di conservare gli altri per conservare se stessi. Nessuno poteva sottrarsi a questo destino, neanche Don Sebastiano, che pure era un onesto ragno che tesseva la sua tela e conosceva gli altri solo per le firme che mettevano sugli atti. diviso da nuoro da insormontabili barriere, forse San Pietro aveva un'altra vita. San Pietro gettava coi suoi patriarcali delitti un ponte verso il futuro. Seuna non era che un carro e un gioco, e non sapeva e non si curava di essere. Ma l'infinita povertà di Seuna aveva un privilegio su quei potenti di San Pietro. Quando moriva qualcuno, il morto doveva per forza passare lungo il corso lastricato, percorrerlo tutto, perché il cimitero, sa e manca, era dalla parte opposta, al di là di San Pietro, nei pressi della solitudine. E quando il morto passava, i signori del caffè Tettamanzi si alzavano e si scoprivano il capo.